c'era, ma ero abbastanza, dai. Stamattina sono rientrato molto tardi. Ah, che dovere? Saccarza. Dove? Carcia, Saccarcia. Ah, calma. Dove hai lavorato? Era tranquillo. C'erano gli Alfa Blondi. Ah, ti ho preso, cazzo. Sì, che cosa mi giuretta? Perché tu una sorella hai? Cappa. Ecco, non lo sapevo. Tu lo sai, è più piccola di me. Ma di Roggero. Vabbè, non si è sentito nessuno. Poco fa c'era Claudio, c'era anche Toto. Ma c'era, non so se c'è un giro, se c'è un bel tornato, non so di gente. Adesso non c'è più nessuno. Però un attimino, che sto chiudendo una cosa, un attimo, riprendo subito. Sì, ja. Attenzione, 10. Fatti, Sparviero, a mezz'endi. Poi, girato. Mi sono entrato adesso, stavo mangiando. Solo sì. Ma c'è Antonio adesso. Ma, non ho capito. Tutto a posto? Tutto a posto, mangiato. Volevo uscire, ma non ci sono uscito. Ecco, ho fatto una doccia. Me ne sono a casa, mi sono preparato la roba per domani. Andò a travagliare. Finita la pacchia, domani, domani si rinizia così. Allora, domani si andrà a travagliare. Vabbè, avrei voluto anch'io, ma non posso. Sono anch'io là con questa piazza di infortunio. Quella sera mi dà sempre fastidio. Dopo cena. Ho bisogno sempre di riposarmi. Ma insomma, 10 minuti, fa una sigaretta, poi spengo tutto. Vorrei sdraiarmi. Non si è sentito nessuno, quindi. Roberto. Tutti gli altri sedi arretrate, cazzarona. Un pochettino maledetta, però. Lo so, tu. Lo so, purtroppo è andata così, è andata anche bene, quindi non ci voglio pensare, si abbiglia in culo. Pazienza. No, da domani dovevo essere in ferie. E invece siamo così. Vabbè. E cosa vuoi fare? Va bene. No, io ero a cena, però ho abbassato il volume qua della baracchina, sto usando 48 i suoi vatti. No, c'era anche Fabrizio, c'erano a mangiare, poi si faceva sentire, no, non ha acceso. Veramente ancora no, non ha acceso. Va bene, va bene. Non tutto l'ho già detto, ora è il periodo suo e quindi il caldo inizia adesso, ancora siamo all'inizio di giugno, credo che vada ad aumentare sempre di più, anche perché se vogliamo sino all'altro giorno stava piovendo, quindi adesso inizierà a fare tempo bello. Non è nato a Romirone di piove. Vabbè, già me la può fare il lei, ma dai. Ho piantato il melone, ho piantato il deposito. Sta crescendo la pianta piano piano. Ah, la pianta dei meloni, dalle acqua. Vogliamo un po' di acqua, quelli che grandissime. Buone pure, no? Beh, se la terra è buona, l'innesto è buono, già, già sono buoni. Quelli sempre arriva molto, molto concimato la terra, capito? Perché lì sono piantagioni, carciofi, tutte quelle cose, quindi la girano sempre. Aspetta, mi prendo un po' da cedere, un secondo. Eccomi qua. Ma non sera, no, non salite più piantagini dopo la cena? No, adesso non ci stiamo più andando perché abbiamo un sacco di cose da fare, poi siamo stanchi. Oggi è sempre vento, no? Okay. Se non schiaccia bene, lo sto usando poco, già a pulirlo. E la sera dopo cena, poi dove, come facevamo sempre. Capito? Io sono vicino adesso. Prendere un po' di fresco si può anche andare. Opa. Non c'è problema, dai. Non neanche averlo. Neanche averlo a papo. Qualche sera, in questi giorni abbiamo avuto tanto da fare, così che non c'è manco con gana di vannuta. Così è, vabbè, basta organizzarci, giusto così per prendere una boccata d'aria, fare due chiacchiere, già si può anche salire. Sta di là Giuseppe, non dico sempre, ma gli altri anni già salivamo dopo cena. Già salivamo, sì. Ma intanto già vai a casa tu, cosa fai? Stare alla radio, c'è caldo, anzi, adesso c'è ancora fresco, ma se va a aumentare questa ondata di caldo, è meglio uscire a prendere una boccata d'aria, capito? Scappa. Adesso vediamo. Non va a chiedere. Scappa. Purtroppo questa settimana abbiamo una settimana di difficile. Oh, adesso cala per il lavoro, non va poi. Lavoro qua, sto facendo un sacco di lavori qua, poi ho tante cose, ragazzi che non è gana. Ma ci picchia sto microfono, questo microfono oggi. Non li sto usando, ma oggi tutto il giorno che uso il baracchino. Ho usato il 23, era il 23 quello di Mario. Adesso ho commutato la 48 un po', che vedo bello bene lo smitter, celeste, gli altri non ci vedo nulla. E vabbè, basta dirlo a quelli che ci arrivano sempre. E ci stiamo in radio, ci facciamo due chiacchiere di persone ogni tanto, saliamo, prendiamo una boccata d'aria. Già fa bene. Porca Giuseppe, cosa? A Tornados. E poi già, vediamo. E dove vedi stasera? Non ti ho sentito per niente, giri. Aspetta. Leggiamo il coperchio del coso del bagno. Poi stamattina ho preso il mobile nuovo e l'abbiamo montato, un sacco di cose. E pian pianino, poi ho fatto un'altra cosa e non che è sempre fare. E poi sono entrato la sera, dai. sempre da fare, certo. Quante cose ho voluto fare io, poi ci vanno da fino al 21, cioè non mi trovano sta fascia. Non posso fare un accidente. Ma ti ho caricato in affari fatti che sta a fare su mi ha proprio mollato in terra se si è cugliato Ah, quello che hai sostituito, chiappa e vabbè, gli è andato a peggio Gio Maria, poverino, tre costo di fratturate c'è, cioè. Adesso domani ci farò l'attacco. Ho sentito stamattina la figlia al telefono, speriamo bene, e lui è ancora all'ospedale, invece mi hanno dimesso subito. Beh, sicuramente è roba seria, l'ha parato purtroppo, così è. No, esattamente non ho capito la stava facendo in campagna, comunque che ho avuto l'albero, non so, stava facendo frutta o... Gli si è girata la scala o si è rotto il ramo, non lo so. Adesso domani mattina non posso perché c'ho un sacco di cose da fare. Andare anch'io dal medico per farmi l'impegnativa. Devo portare all'ospedale per fare il controllo. Ma no, martedì ci vado a trovarlo, vi vediamo un po' com'è la situazione. Ma saluto, so che mi dispiace la verità, speriamo che ci rimetta a posto bene, che vada avanti alla grande, le condizioni sono potenti a reagire. Vabbè, lui non è un ragazzino, quindi spero che reagisca. La figlia mi ha già detto che domani fanno l'attacco e poi le mettono il busto, quindi che mamma mia. Per le coste non vi tenere 20 giorni il busto, ci saranno tornati. È una persona anziana e quindi sicuramente sta soffrendo molto più di me. E rotture di palle sono rotture di palle grandi. Cazzo, già non so già. Aspetta 2 secondi che canto la parecchio, Guarda, non prendo le palle, dai. Fai, non c'è problema. Abbiamo fatto non c'è problema. Domani e poi lunedì. Scusami, c'è una bella giornata, per carità. Devo pure riparare tutta la settimana, ci deve passare. Non so. Domani è molto quel cazzo di stampa, va. Però collocare 40 e tanto. Non l'hai appoggiato, hai cambiato tanto. Attaccata la ringhiera, attaccata con un palo. E ma in deposito l'hai trovata a cattare? Ah, la ringhiera per la recinzione con un palo l'hai messa lì. Gratis, dipende da quello che mettono, ti faranno pagare una sono 5.000 km, quindi credo che sia gratis il primo tagliando. Non lo so, non sono mai andato, è da un bel che non faccio tagliandi alla Mercedes, se è così, capite? La mia l'avevo presa di andare, quindi era già tagliandata. Quando sono andato, ad esempio, bagaglio, quindi colpirà 220, 230, 300, dipende anche da quello che cambiano. Allora, se non viene mangiato, cosa cambiano? Non lo dico io cosa cambiano. Sono completamente l'olio, la cartuccia, poi qualche altra cassa, se ne ha pure cartuccia, non lo so, qualche altra cassata e via. Non so, faranno un cerchiato, perché hanno il computer, avessi tutto a posto, chissà, anche tutta l'elettronica. Non lo so, tanto sinceramente, davvero, non lo so perché no. Era tanto che non lo faccio di queste cose. Quindi la mia non sta più andando neanche la Mercedes, non la sto manco più portando, sta andando da un officino per il data Mercedes, che è un amico, capite? È Gian Battista. E quindi mi tratta bene, insomma, non fa i prezzi pieni come fa la Mercedes. La Mercedes non si può entrare, però questa, siccome è in garanzia, bisogna portarla per forza alla Mercedes, altrimenti non ti timbrano la garanzia, almeno i primi tagliandi. Poi una volta che scade la garanzia la porti di timbrati. Grazie. Ecco, pecco, che ha? Ok, cosa è? Il multicesto, può essere un pecco, ma non può anche essere. Che cazzo, c'ha? Non c'ha ripresa, cioè, che ti muovi, tu vuoi riprendere con la seconda, non sei forte, o vuoi riprendere con la terza? No, è che si è giunto a fondo, non va. Come si entra la seconda parte, che è una cosa, secondo me c'è una sincronizzazione, cioè. È l'unica cosa che ha con colpa altre macchine. Credo che sia la strada così, perché anche quella della torretta era così, non... Invece il fiorino, quello che c'ho io, quello ne ha un bel ripresa. Quelli a cassone aperto, mi pare che abbiano limitatore, bisogna che ti informi a tu, credo che abbiano limitatore, che sino a un certo, perché caricano un bel, capito, c'hanno qui palaggio quelli. E quindi come spunto magari gliel'hanno limitato, non lo so, perché quella che c'ho io, minchia, c'è uno spunto allucinante, viaggia un bel quello, non vanno bene, vanno, adesso mi vedi, ne hanno approfittato, io sono fermo, l'hanno portata in carrozzeria, a mettere tutto a posto, a fare col fianchetto, lucidarla, mettere le gomme nuove, una bella lavata, così quando rientro la macchina è già pronta, se no avevo anche il problema di fermare la macchina, capito, perché ero incasinato perso. No, caro, lo spunto è iniziale, è forte lo spunto. Ah, questo è un rallentamento di ripresa, capito? Siamo veloce giù in questi spunti, poi per tutta la scala della marcia, puoi riprendere in terza per dire. Non riprende, se ne muore un po'. Però come tu vuoi appuntare la seconda? Cazzo, la sicurezza. Ho capito, non c'è la forza di riprendersi subito. Ascolta, ce l'ha quel sistema l'eco drive, non so come cacchio esatto come si chiama, l'eco drive mi pare. Quello quando ti fermi si spegne da sola. La mia si accende da sola, ma quella che uso io si accende da sola. Se tu lasci ti fermi e lei si spegne, che c'è quel sistema inserito, e te ne scendi, dopo 5 minuti, 10 minuti si accende da solo. Chiaramente non l'ho mai contattato se ce l'ha, è tutta elettronica, non l'ho mai contattato, la verità. E ma deve averlo perché c'è lo stesso motore, il sistema è quello, capito? Il sistema è quello anche della strada, sono uguali, non cambia assolutamente niente. Vabbè, che te devo dire, va bene, dopo io mi allontano dalla radio, dai, semmai se ci si sentiamo più tardi, perché fa male seduto qua nella sedia, nella poltroncina, sta tirando il braccio e sino a quando non fa effetto la medicina, mi allontano un pochino, mi sdraio, dai, ti ringrazio per le due chiacchiere, magari senti a qualcuno ti fai due passaggini, oppure se ci sei più tardi, magari tra una mezz'oretta rientro, adesso ho bisogno di tagliare.